America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Ted Cruz will win the Republican presidential primary. Una notte da dimenticare per Hillary Clinton e Donald Trump. I due newyorkesi sono stati brutalmente sconfitti ieri in Wisconsin, rispettivamente da Bernie Sanders e da Ted Cruz. Sono sconfitte pesanti anche nei numeri, che confermano l'incertezza di questa corsa elettorale americana, e devo dire soprattutto per i repubblicani cominciano ad aprire in modo concreto che vi sia la possibilità di arrivare alla convention di Cleveland in Ohio senza un chiaro vincitore. Ecco, non so poi se questa accelerazione che abbiamo visto in Wisconsin di Ted Cruz e di Sanders potrà avere il fiato lungo. So però che il Wisconsin è un punto di riferimento importante per l'America, delle radici profonde nella cultura americana. Vi ho fatto sentire la motocicletta non soltanto per dare l'idea di qualche cosa che sta partendo proprio dal Wisconsin e che potrebbe poi avere conseguenze negli altri stati, chissà in Pennsylvania, New York oppure addirittura in California, ma perché vorrei anche un po' raccontarvi questo stato. È interessante, parlando di America, cercare di approfondire un pochino qual è la realtà di alcuni di questi stati. E pensate, non so quanti di voi lo sapevano, ma in Wisconsin, a Milwaukee in particolare, ci sono i quartieri generali, c'è la fabbrica della Harley-Davidson, che è un simbolo dell'America, un grande simbolo di quella che è l'idea dell'esplorazione, della libertà di andarsene in motocicletta per le grandi strade del paese. Pensate, la Harley Davidson è stata fondata nel 1903, è passata attraverso grande depressione, crisi, e ha avuto cambiamenti di proprietà, però alla fine è riuscita sempre a resistere e oggi è, beh, quel grande marchio di motocicletta che tutti conoscono intorno al mondo. C'è tra l'altro un raduno annuale in settembre, un grande rally con migliaia di motociclisti che arrivano appunto in questa cittadina del Wisconsin. Wisconsin vuol dire anche città universitaria. A Madison, che poi è la capitale del Wisconsin, c'è una delle più importanti università statali del paese. Pensate, ci sono 43.000 studenti, ci sono 2.200 professori, l'ho visitata. C'è un laboratorio di fisica che è addirittura un piccolo acceleratore nucleare. L'università è bellissima. E noi pensiamo sempre alle università private, pensiamo a Harvard, pensiamo a Yale, pensiamo alle grandi università della East Coast, però l'America ha delle realtà universitarie che sono radicate in stati anche decentrati, meno battuti da noi europei. E devo dire che Madison è sicuramente una università gioiello, il campus meraviglioso si affaccia su questo lago, ci sono dormitori nuovissimi e questa popolazione universitaria, pensate che tutto il Wisconsin, che poi è uno stato abbastanza grande, mi pare che sia il 21esimo stato americano per dimensione, ha una popolazione di 5 milioni di abitanti. Comunque questa popolazione di studenti ha naturalmente aiutato Sanders. È stato qui in Wisconsin che il candidato della sinistra del Partito Democratico ha confermato la sua straordinaria forza politica, la sua presa sui giovani, sui giovanissimi, su certe minority. Sentiamolo. With our victory tonight in Wisconsin, we have now won 7 out of 8 of the last caucuses and primaries. Ecco Sanders nella dichiarazione della vittoria, che dice: con il Wisconsin abbiamo vinto 7 delle ultime 8 elezioni. La nostra campagna terrà duro fino alla vittoria. Le donazioni continuano ad affluire. Siamo a un passo dalla nomination, ha detto Sanders. In effetti, dal punto di vista delle donazioni, il primo trimestre si è chiuso molto bene per Sanders. Pensate che ha raccolto oltre 100 milioni di dollari contro i 72-73 milioni di dollari di Hillary Clinton. Sembra una cosa impossibile, perché Hillary ha una presa talmente forte sull'establishment del partito, ma anche su donatori importanti, che questa performance di Sanders ci conferma la sua grande abilità, la sua forte, come vi dicevo prima, presa politica, soprattutto attraverso internet, perché è riuscito ad ottenere donazioni medie di $27-30, ma le ha avute da milioni e milioni di persone. Ecco, sul piano del realismo, beh, certo, la rivendicazione della vittoria di Sanders ha espresso parole giustificate, visto che Sanders ha vinto con il 56,2% dei voti contro il 43,5% per Hillary. Dunque, non è stata una vittoria sottile. Pensate che a un certo punto, appena poche settimane fa, forse due settimane fa, Hillary guidava i sondaggi del Wisconsin con il 44% contro il 42% di Sanders. Dunque è stato in queste ultime settimane che è riuscito a invertire la tendenza. Ecco, detto questo, però, forse le parole di Sanders non sono troppo realistiche, perché guardando in realtà New York, la Pennsylvania, la California, beh, è vero che le cose potranno cambiare, è vero che Sanders potrà avere anche un ritorno, però il distacco in questo caso è molto forte a favore della Clinton. New York 53,5% contro il 42% di Sanders. Pennsylvania, Clinton 54%, Sanders 30%. California, Clinton 49,3%, Sanders 38,8%. Ecco, lo stesso possiamo dire in campo repubblicano. Sappiamo che Ted Cruz è furibondo contro Kasich, che non si ritira. Ma perché non si ritira? Perché non lascia il campo in una corsa a due, dove magari posso fare meglio contro Trump, che in fondo è il nemico comune dell'establishment. Ma Kasich non si ritira perché? Beh, perché, per esempio, dovrebbe fare molto bene a New York, meglio di Cruz a New York. New York, Pennsylvania, California in campo repubblicano vedono comunque molto avanti Trump. 53% a New York, 38% Pennsylvania, 35% in California. Kasich a New York ha il 21%, quindi molto al di sotto, Cruz ha il 22% contro il 38%, vi dicevo, in Pennsylvania, e il 27% in California contro il 35% di Trump. E Kasich ha il 20% in Pennsylvania e il 16% in California. Cosa significa questo? Beh, che Kasich spera di arrivare a una convention dove non ci sia un vero vincitore e dove alla fine il voto potrebbe convergere su di lui, governatore dell'Ohio, stato chiave per vincere le elezioni americane, per lui un governatore, uno statista, in grado di competere forse a pari passo contro Hillary Clinton. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americamediguato.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato del Wisconsin, uno stato del Midwest, uno stato romantico, vi ho parlato dell'università sul lago, dunque guardiamo un po' indietro all'era delle grandi motociclette, pensiamo a Ella Fitzgerald che canta My Cousin in Milwaukee. I got a cousin in Milwaukee. She's got a voice so squawky. And though she's tall and kind of gawky, oh, how she gets the men. Her singing isn't operatic. It's got a lot of static. What makes your heart get acrobatic? 9 times out of 10. When she sings hot, you can't be solemn. It sends the shivers up and down your spinal column. When she sings blue, the men shout, what stuff? That baby is hot stuff. So if you like the way I sing songs, if you think that I'm a wow, you can thank my squawky cousin from Milwaukee. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!